Buon pomeriggio e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Domenico Caliri, direttore della Bolo Town Orchestra. Buon pomeriggio, ciao, Domenico. Ciao, buon pomeriggio a te. Bene, siamo qui per parlare appunto del progetto Bolo Town, un progetto che mi dicevi prima essere in piedi da un po' e che vede un sacco di nomi importanti poi della scena musicale bolognese. Vuoi raccontarci un po' come nasce questo progetto? Di cosa ti occupi tu all'interno di questo progetto? Allora, io all'interno di questo progetto sono il direttore e curo gli arrangiamenti, alcuni miei e altri di elementi dell'orchestra. Diciamo che uno degli obiettivi, forse quello che diventerà l'obiettivo principale, e di stimolare i ragazzi che fanno parte dell'orchestra a comporre dei temi originali che poi io cercherò di allestire in veste orchestrale, perché poi c'è una piccola grande differenza tra la scrittura per piccolo gruppo e la scrittura orchestrale, nella quale tutto si allarga a delle sezioni di strumenti e strumenti a fiato come ance, ottoni, la ritmica, eccetera. Devo dire che l'organico è partito da un'idea di ensemble simile alla big band, ma non con l'intenzione di essere assolutamente una big band nel senso tradizionale, però adesso siamo arrivati già a 19 elementi. C'è anche un cantante che si è aggiunto strada facendo, e quindi abbiamo veramente una sezione molto nutrita di fiati. Sono 13 strumenti a fiato e una ritmica che comprende anche percussioni, oltre batteria, basso, tastiere, chitarra. Il cantante che è entrato come guest, che è Devon Miles, e però poi ora fa parte stabilmente dell'orchestra. Quindi il metodo di lavoro è quello di filtrare un po' le composizioni, le idee, le suggestioni che vengono dai ragazzi stessi o anche da chi come me scrive e ha un suo repertorio, eccetera, e soprattutto queste idee sono filtrate anche dalla colui il quale ha fatto nascere l'idea iniziale, cioè Jack Calico, che tutti conoscono semplicemente come Jack, che ha gestito direi egregiamente alcuni locali noti nell'underground bolognese, dal Baracca al Binario 69, eccetera, e ha sempre messo grande attenzione anche alla direzione artistica dei gruppi, delle sue rassegne. In questa Bolo Town fa parte un comitato artistico, che dà un indirizzo estetico musicale ai brani, e io tecnicamente poi sono quello che cerca di tradurre tutto in partitura orchestrale. Questo è un po' l'obiettivo e il nostro discorso. Parallelamente ci piace anche l'idea di arrangiare brani già conosciuti, ma di vari generi, anche come dire facendo dei voli un po' pindarici, per esempio prendendo in considerazione compositori della tradizione jazzistica ma anche della tradizione italiana. Avremo l'occasione di ascoltare la Bolo Town questo venerdì, quindi questo venerdì siete, sì, correggimi se sbaglio, siete venerdì 17 al Mercato Sonato qui a Bologna, sì, alle 21, sì. Un concerto che appunto con un'orchestra di 19 componenti sarà particolarmente interessante, quindi se vuoi darci qualche anticipazione su cosa aspettarci durante questo evento. Di tutto e di più. No, allora, c'è un repertorio nel quale si passa da arrangiamenti di autori della tradizione colta europea come Kurt Weill, ma anche Kurt Weill stesso poi nel suo periodo americano è diventato anche un compositore per il musical, quindi quel genere lì, a compositori famosi, celebri della tradizione tipicamente jazzistica come Charles Mingus, un paio di arrangiamenti su di lui, alcune composizioni originali del chitarrista della Bolo Town, che è Ugo Moroni, che io poi ho perfezionato riarrangiandoli, e addirittura un una canzone di un cantautore molto famoso dal nome Lucio, ma il cognome non è Dalla. Voglio lasciare un po' di mistero. Allora, non questa, che... una famosissima canzone di fine anni 70 che è stata ripresa, un po' trasfigurata, quindi diciamo che il nostro metodo è puntare a diversi generi, però arrivando a un suono che sia riconducibile, che sia più possibile coerente, ecco. Mantenere un suono unico, ma con generi più disparati possibili. Ecco, questo è il nostro gioco. Beh, la curiosità allora è sicuramente tanta, quindi ricordiamolo, venerdì 17 al Mercato Sonato qui a Bologna, sì, alle 21, i biglietti sono disponibili già sui siti social del Mercato Sonato, ma anche di Bolo Town Orchestra. Non possiamo fare altro allora che augurare in bocca al lupo per questo concerto e per tutti i progetti che Bolo Town ha in cantiere. Crepi, soprattutto mi sembra che carino ricordare che di questi tempi passami il termine, lo uso anche quasi ironicamente, un assembramento di musicisti tale non è così consueto. Non ecco, è così scontato quindi, vederlo, quindi... Ecco, quindi sarà ancora più bello. Allora ti ringrazio Domenico, ti ringrazio per essere stato con noi ai microfoni di Radio Città Fujiko e ancora in bocca al lupo per venerdì. Grazie e crepi.